Capitolo 6. Le molte stanze. Marzo 1950. Quando ci si innamora, si ritorna alla chiesa. Andando da padre Lowe, pensava Suzanne. Nella sua sala d'aspetto c'erano tre comuni sedie di legno col sedile forato per la ventilazione. Sulle pareti gialle spuntavano alcuni chiodi arrugginiti e abbandonati e un crocifisso di legno commovente nella sua nudità. Stava sopra al tavolo. Fuori dalla finestra, il campo da tennis tagliava la collina e il porto, rosati dal tramonto. «La vostra visita potrebbe essere una manifestazione della grazia divina?» mi disse padre Lori, entrando ansimante dopo una partita di tennis e una rapida doccia. «Il vostro potrebbe essere un inconscio tentativo di ritornare alla fede.» Crollai il capo. «Noi cinesi iniziamo la vita coi precetti morali di Confucio. La nostra immaginazione è sempre crescente, vaga, con Tao nel regno del nulla come sembra. E alla fine della nostra esistenza passiamo al buddismo. Negli intervalli molti di noi subiscono un periodo di cristianesimo cattolico o protestante.» Padre Lo accusò visibilmente il colpo. La fede trova nella tradizione cinese un terreno favorevole. La venerazione degli avi non ci disturba e abbiamo molti convertiti in Cina e a Hong Kong. In effetti, la Chiesa cattolica ha un notevole potere spirituale in Oriente e a Hong Kong è attivissima nelle opere di bene. Tubercolosi, orfani, alloggi, assistenza, scuola. Non esiste sforzo costruttivo per il benessere della comunità a cui la Chiesa non prenda parte. E ha molti convertiti fra gli studenti, tagliati fuori dalla Cina, insoddisfatti dalla pallida confusione delle numerose sette protestanti, frustrati dall'arido cinismo di una concezione di vita interamente dedicata alla ricerca del denaro, che la maggioranza dei cinesi d'oltremare ha fatto propria, sconcertati dall'avvento del comunismo, i loro giovani spiriti anelano a una fede più vasta. A una magnifica conclusione che dia sostanza all'impotente realtà materiale dell'esistenza. Dei sei medici cinesi interni all'ospedale, cinque erano cattolici convertiti, il sesto ero io. Erano molto fervidi e zelanti e, giudicandomi un'apostata, mi trattavano con silenzioso ma deciso disprezzo. Ma non ero venuta a discutere di religione con padre Lo. Sono venuta per parlarvi d'altro, padre. Forse dell'amore? Disse padre Lo sorridendo. Aveva molta esperienza delle cose umane. Sono innamorata di qualcuno, dichiarai senza tergiversare. Credevo che foste innamorata della Cina, mi rispose padre Lo sorridendo sempre. Come un bambino che voglia parare un colpo, alzai il gomito. Padre, cos'è questa cosa che ci spinge avanti e non lascia mai la presa? Ho perduto tutto quello che avevo dentro di me. Ogni cosa non è più quella che è. Ma significa qualcos'altro. Il desiderio di servire, di appartenere, questo nuovo desiderio di un uomo, la passione per la terra e la bramosia di vita non sono che ombre multicolori gettate sul terreno da qualcosa che sta nel sole e non ha forma, che a portata di mano è inafferrabile, nulla è più quello che era. Che cosa significa? Il fine di tutto, disse padre Lo, per nulla sorpreso, è l'amore divino. «Non ditemi questo!» esclamai. «Sono parole terribili da udire. Sono attaccata alla terra e così rimarrò. Sono una donna ostinata, radicata, aggrappata alla vista, al tatto, all'odorato, sempre sospettosa delle astrazioni. Perché non mi avete invece parlato della scelta tra il bene e il male, di opposti come la libertà e l'oppressione, come la verità e la menzogna, alla maniera dei giornali? Essi semplificano sempre le cose complicate. Come se queste momentanee evoluzioni storiche in cui viviamo fossero verità eterne. I giornali, disse padre Lowe, trattano ogni evento incomprensibile con piatta banalità e giocherellano con i disastri mondiali come con palloni da bambini. Forse anche loro sono sconcertati, come tutti noi, e voi avete paura. Sì, ho paura. Non voglio essere spinta al di fuori della normalità. Essere scacciata dalla vita comune. Voglio possedere come tutti gli altri. Voglio amare un uomo, avere un posto nella vita, godere un'esistenza piena. Non capisco il vostro Dio cristiano, ma forse l'uomo che amo capirebbe quello che intendete. Alcuni sono nati per cercare il divino, disse padre Lo. Per tutta la sua vita continuai nuovamente presa dal pensiero di Mark, sentendolo in ogni fibra della mia carne. Egli ha anelato a una devozione assoluta, a una fiamma ferma e appassionata che lo bruciasse, rendendolo libero, e ora crede di aver trovato in me quello che ha sempre cercato. Ma non è così, non sono io, ed io sola so quanto egli si inganni. Naturalmente anch'egli lo capirà un giorno e si sentirà tradito. E io non voglio essere la causa del suo tradimento verso se stesso. Mark Elliot, disse padre Law, dando così a vedere che sapeva. Mark Elliot è un gentiluomo cristiano, e cioè quell'affascinante miscuglio di mitezza e di onore, di coraggio e di dolcezza di carattere che si trova soltanto in Inghilterra. Un'oasi fresca nel deserto. Una voce tenera e costante, il canto sereno di un uccello fra le smanie delle moltitudini. Forse è tutta colpa mia, mormorai. Forse sono stata io a mettermi in testa tutto questo. Di colpo mi trovai a dibattermi nel nulla. Svanite la follia e l'esaltazione, perduto il significato, strappata la veste del sogno, non rimaneva che una piccola nudità. Sentivo un sapore amaro in bocca. La mia testa era confusa e mi sembrava di essermi comportata in modo ridicolo. Due persone innamorate, spinte dalle difficoltà e dal forzato ritegno a un'emozione eccessiva, intrappolate nel groviglio degli avvenimenti, costrette e limitate dal rimorso e dall'esitazione, da lealtà e aspirazioni contrastanti, tutto il resto, null'altro che conati nel mio cervello. Padre Law parlava ancora. Ben pochi sono coloro che conoscono questo anelito, questa spinta impellente verso l'assoluto della gioia e del dolore, verso l'integrità che è il divino. Voi due dovete essere molto felici, poiché siete sfuggiti all'indifferenza e alla mediocrità. Ahimè, esclamai amaramente, che cos'è la felicità? La felicità, rispose padre Law, è l'accettazione positiva del volere divino. Dio è crudele! Ribattei improvvisamente, invasa da un freddo odio. Considerate quello che ha fatto per noi. Ci dona l'uno all'altra nella bufera, facendoci conoscere la potenza e lo splendore dell'amore, e poi ci toglie tutto, mostrandoci la futilità del possesso. Ora non posso più tornare in Cina completamente, poiché non posso rinnegare quello che ho conosciuto, insultare quello che ho amato, odiare quello che mi ha dato la vita. Simile a uno squarcio di azzurro nel cielo plumbeo, ci sarà sempre Mark a trattenermi da ogni manifestazione di frenetico entusiasmo, dalla mentalità, delle parate, dei cortei, dall'odio e da tutte quelle cose che mi farebbero sentire parte della massa. E tuttavia non posso nemmeno avere Mark. Non nel modo normale e semplice, non con integrità. Oltre al roseto, oltre alla terra del miele. Oh cielo! Esclamò padre Law con un lieve sospiro. Come siete fortunati! Cadeva ormai il crepuscolo, con la sua luce fluttuante, nella quale i cuori si aprono e la mente, stanca dei suoi cavilli, pronuncia per mezzo di una bocca sconosciuta parole lente e sorprendenti che ascolta attonita. Perché tutto ciò è accaduto proprio a me? Non posso sopportarlo, eppure è accaduto. Ma voi, che parlate tanto facilmente della volontà divina, l'avete provato? Avete tentato di accettare l'intollerabile, l'inumano e l'ignoto? È stato dunque tanto difficile, disse padre Law con grande candore e semplicità. Cielo, devo pregare. Devo cercare di capire con l'aiuto di Dio. Andammo insieme fino al cancello, camminando lentamente lungo il sentiero di ghiaia fra due siepi di azalea in fiore e parlando del peccato e dei santi, della Cina e di come Dio giunga al compimento di sé attraverso le sue creature, nelle maniere più strane e più diverse, poiché il bene e il male sono nelle sue mani. Ed entrambi ci sentivamo in pace. E senza paura, perché in quel momento, fra le siepi fiorite, entrambi eravamo sudditi del regno che è al di là del tempo e dello spazio. Il male di questo mondo non avrebbe mai scosso padre Law nella sua fede, nella sua carità, nella sua umiltà. La sua fede era per lui vita e tangibile in tutte le manifestazioni della materia e dello spirito. era lo stesso albero della vita. E accanto alle mie radici, tenacemente aggrappate alla terra, c'era un'altra affermazione, antica come l'umanità, sempre negata, ma sempre presente. Da questo saldo ancoraggio nel nulla avrei trovato la forza per camminare da sola, fuori passo col resto del gregge. Da quel momento in poi, vane sarebbero state tutte le pastoie esteriori, tutte le forme di schiavitù e di conformismo, poiché esse non sarebbero mai riuscite a imprigionare completamente il mio spirito. Ricordate, nella casa divina ci sono molte stanze, furono le parole di congedo di padre Lowe. Egli pensava che un giorno avrei potuto tornare alla chiesa, ma io sentivo che non l'avrei mai fatto. Dopo la liberazione, scriveva terzo zio, abbiamo continuato a vivere tranquillamente nella nostra vecchia casa, con tante bocche da sfamare nella nostra famiglia e 300 parenti. Non siamo considerati ricchi, di conseguenza non abbiamo ragione di preoccuparci troppo. Possa quindi il tuo cuore essere in pace per noi. Ho convertito tutte le mie economie in obbligazioni nazionali e terza zia si è iscritta a un'associazione femminile per imparare ad adeguarsi alla nuova mentalità. Ha un'intelligenza elastica. È necessario conoscere molte nuove cose. Io frequento un corso di nuova dottrina e di autocritica. Soltanto i molto saggi e i molto stupidi si rifiutano di cambiare. Nonostante tutte queste cose che smuovono il cielo e la terra, la nostra salute rimane buona e la nostra famiglia mantiene la sua pace e la sua armonia. Questo è dovuto alla virtù dei nostri antenati che praticavano la pazienza e la temperanza nei gesti e nelle parole. Ma ahimè, non è così per le altre famiglie che una frettolosa ignoranza e una mancanza di ragionevole buonsenso hanno diviso, spezzando nell'armonia. Perdere la virtù della cortesia non significa appartenere alla nuova era. Ma vi sono purtroppo molti opportunisti, adulatori, simili a un cane affamato con un nuovo padrone. Ti racconterò ora della nostra ferrovia. 40 anni fa era stata progettata una rete che unisse Chongqing alla capitale della nostra provincia e per 40 anni i progetti rimasero in un cassetto mentre i signori della guerra combattevano, le ribellioni distruggevano il paese e la corruzione si ingrassava a spese del cielo. Ricordo bene quei tempi, 40 anni fa, quando tuo padre, ancora giovanissimo, ritornò dall'Europa con la moglie straniera, tua madre. Era pieno di entusiasmo per le macchine che aveva passato anni a studiare in Occidente. Aveva imparato a costruire ferrovie e avrebbe desiderato costruirne una nella nostra provincia. Ma naturalmente il suo era un sogno impossibile, poiché a quell'epoca persino le strade della nostra città erano divise, così che una parte apparteneva a un possidente terriero e l'altra ad un altro. Tuo padre non poté costruire nulla e se ne andò nel nord. E per 40 anni non avemmo ferrovia, ma soltanto progetti. Ora il suo cuore esulterebbe, poiché finalmente, dopo 40 anni, la strada ferrata è stata costruita. Così, quando l'onestà viene ristabilita, ogni cosa prospera nel clima della pace. Sebbene io sia vecchio e molte cose mi appaiano strane, l'energia dei giovani non mi disturba. Invece di perdere il tempo nell'ozio, i tuoi cugini lavorano nei campi per la semina di primavera. Secondo fratello e quinta sorella sono andati nel nord a studiare nelle grandi università. Ottavo figlio e nono figlio si sono arruolati nel nuovo esercito. Decima figlia e undicesima figlia studiano il russo, oltre all'inglese. Dicono che è molto più difficile. Ho fatto loro presente che ogni lingua straniera è molto simile a un'altra, dato che tutti gli stranieri ci sembrano uguali. Se la Russia ci aiuterà a risollevare questa nostra terra dalla povertà e dalla desolazione imparerò il russo anch'io. Sembra strano che dopo tanti anni di consigli, di aiuti e di denaro da altri stranieri abbiamo potuto giungere a questo stato di agitazione. Da parte mia non ho mai creduto negli stranieri e sono tuttora convinto che la nostra forza è basata sulla nostra virtù. Ciò che vale per l'uomo vale anche per le nazioni. Ora c'è cibo sufficiente per tutti e i bambini sono felici. I prezzi non aumentano più, come il grande fiume nella piena di primavera. Noi vecchi siamo stati fortunati di poter assistere a questi grandi cambiamenti e al risorgere del nostro paese. Fra le molte cose buone ve ne sono alcune che sembrano puerili ed eccessive e che peccano di intolleranza. Noi che un tempo eravamo i privilegiati veniamo ora spogliati e sospettati. Molti, un tempo potenti, vivono ora nel terrore del loro trascorso. Soltanto col tempo le cose nuove imparano la tolleranza. L'orgoglio non deve essere troppo alto, il desiderio troppo liberamente appagato, la gioia eccessiva. Ma i giovani non conoscono le limitazioni e divorano il mondo con la furia del loro spirito ardente che esige la perfezione in tutto e in tutti. Tuttavia, stanno costruendo un nuovo cielo e una nuova terra, e questo è già molto. Sono vecchio e devo sapere accontentarmi. L'essere umano è formato dall'azione del cielo e della terra, di sensibilità e di ragionamento. Tutti gli elementi, con le loro qualità e i loro difetti, con la loro passione e la loro inerzia, si muovono in armonia dentro di noi. E non è possibile conoscere completamente il nostro cuore perché esso costituisce per noi il cielo e la terra, il principio e la fine di tutte le cose della nostra vita. Dall'azione concorde di questi elementi sorge un ritmo, principio di virtù che lo governa e che governa anche il sole e le stelle. Senza questa virtù, la bontà che è in noi può diventare violenza e tutto è disgregazione, caos e confusione fino a che non raggiungiamo un altro equilibrio e il ritmo eterno si riafferma nella ricerca di una nuova armonia. In questa lotta l'antica sapienza non conta più e l'essere umano deve nuovamente imparare che la base della giustizia è la misericordia, che il principio della sapienza è l'ignoranza e che la saggezza dell'autorità sta nella benevolenza. Ma tale è il ciclo delle cose. E così il nostro mondo cammina verso il futuro come cresce un albero, con alternative di pioggia e di siccità, di caldo e di freddo, di luce e di oscurità. Per questo dobbiamo avere tolleranza e ritegno in tutte le cose. Dobbiamo possedere una visione di armonia interiore che fonde i contrasti e che sa considerare due opposti come diversi aspetti della stessa cosa. Come nella ruota, gli spazi vuoti hanno una funzione essenziale, quanto gli stessi raggi. Così è di tutte le cose sotto al cielo, per il quale tutte le cose sono uguali. Non dimenticarlo. Che meravigliosa pennellata ha tuo zio, esclamò Mark. Credi che potrò conoscerlo un giorno? Lo spero. Ah, gli piaceresti, Mark, perché avete una cosa in comune, una virtù essenziale nel senso cinese della parola. Quella di amarti, Su Yen? Sciocco, alludevo a quella cosa che si chiama tolleranza, una temperanza che rifiuta ogni estremo, quella che fece dire ai vecchi libri, lascia sempre una via di scampo al tuo nemico. La piccola pecca che ci rende umani e ci mantiene tali. Una mitezza mentale che toglie alla violenza il suo trionfo. Avevo proprio sperato di poterlo conoscere prima o poi, disse Mark, ma i nostri mondi sembrano allontanarsi continuamente l'uno dall'altro. Non credo che potrò mai andare a Pechino, amor mio, nonostante il riconoscimento del governo, nonostante il generale desiderio di pace. Ogni mattina, quando mi sveglio per pensare a te, ho paura di rendermi conto del mio immenso bisogno di te. E poi apro il giornale per vedere quali progressi siano stati fatti durante la notte, per ottenere lo scopo di spezzare il nostro mondo in due frammenti irriconciliabili. Fuori della finestra della sua stanza d'albergo, la frangia di una nuvola vagante gettava un grigio manto di pioggia su di un lato del mare. Le braccia di Mark mi stringevano. Il battito del suo cuore era nel mio sangue. La sua mortalità mi avvolgeva tutta. E chi poteva desiderare l'immortalità quando la carne evanescente e transitoria godeva di quella bellezza dorata, di quella passione esultante e urlante, quando la breve fiamma radiosa era nostra? La sua rapida scintilla non era forse sufficiente a sfidare vasti abissi di terrificante oscurità, a farci credere di aver raggiunto il nostro compimento? Oh, esclamò Mark, triste e tuttavia sorridente. Che sciocchi siamo mai, Su Yen. Cerchiamo di afferrare il firmamento, dimenticando che la terra è una stella. Fiore d'amore, radicato nella gioia e nel dolore, perfezione conosciuta una volta e mai dimenticata, inizio e fine, e poi solitudine.